известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. We had a cordial and productive discussion today with the President, Vice President, and Professor Gates. We have all agreed that it is important to look forward rather than backward. Issues important to all of us will form the basis of discussions between Professor Gates and me in the days and weeks. E alla fine l'hanno fatto, non sarà un finale di stagione, come dire, trionfale, grandioso, travolgente, quello di Barack Obama sul praticello della Casa Bianca. Questo che ascoltiamo in sottofondo, per la precisione, è il suo compagno di birretta o di birrozza, fate voi, sì, il poliziotto bianco James Crowley, uno dei quattro signori, due in maniche di camicia, quelli che contano di più, due in giacca e cravatta, insomma un po' più formali, gli ospiti, che si sono fatti nel pomeriggio di ieri la birretta insieme sul prato della Casa Bianca. Dunque, la formazione era la seguente: il rappresentante della Casa Bianca, President Barack Obama, e Vice President Biden, e i due ospiti, coloro che sono stati fatti incontrare figurativamente a Teano, in questa Teano, sul praticello di fine luglio, erano il poliziotto della polizia di Cambridge, Boston, Massachusetts, James Crowley, e il professore di Harvard, Henry Louis Gates. Allora, per chi non l'avesse ancora capito, sentito, anche ne abbiamo parlato diverse volte qui a Jefferson, l'antefatto è che il professor Gates torna a casa sua una settimana fa circa, non ha in tasca le chiavi di casa, se le è dimenticate, si mette ad armeggiare attorno alla serratura per aprire la porta della casa in questione. Viene visto da una signora che tra poco rincontreremo in questa breve storia. La signora lo prende per un ladro, non capisce bene che si tratta, e avvisa la polizia. La polizia arriva sul posto, trova il professore che ancora armeggia con la chiave e comincia a fargli delle domande così un po' entranti, un po' provocatorie: che sta facendo? Il professore si incavola immediatamente, reagisce malissimo, se la prende addirittura con la moglie, nella fattispecie del sergente Crowley, comincia a dire: ah, sto qua perché c'ho appuntamento con tua moglie, insomma quelle cose che non è proprio un'ideona dire a un rappresentante delle forze polizia. Finisce che parte la procedura è quando i poliziotti decidono che si è creata una situazione per la quale la persona interrogata deve essere arrestata. A quel punto, come sapete benissimo perché i film americani li vedete anche voi, non c'è santo che possa scendere in terra, vanno dritti fino alla fine, nel senso che finché non vi ammanetteranno e non vi porteranno alla stazione di polizia per i debiti chiarimenti non si fermano più, anzi se non state attenti rischiate anche una bottarella di taser che magari non è piacevolissimo. Di fatto la cosa diventa una baruffa. Il professor Gates, a base di "lei non sa chi sono io, mi faccia vedere il suo distintivo", viene portato via 4 ore alla stazione di polizia, poi viene liberato da un amico su una, mi sembra, cauzione di $50, qualcosa del genere. La storia però fa immediatamente il giro dei telegiornali e arriva alla Casa Bianca. Barack Obama quella sera ha una conferenza stampa nazionale dedicata a temi di ben altra portata come la crisi economica e la questione della sanità, dell'intervento sulla sanità nazionale, però pensa sia giusto dedicare due parole anche a quella storia. Definisce stupido il modo in cui la polizia è intervenuta nell'occasione e nella fattispecie sottolinea come in un guaio di questo genere ci finiscano molto più facilmente dei neri o degli ispanici che dei bianchi, ovvero la prima seria discesa in campo di Barack Obama, ormai presidente, ma personaggio pubblico americano da 2 anni e mezzo, da quando è diventato appunto tale, ovvero una superstar dell'America del XXI secolo. Per la prima volta ha parlato apertamente di razza e ha scatenato a sua volta un dibattito fortissimo, straordinario. Ci sono stati poliziotti bianchi e neri che hanno detto: non voterò mai più per quest'uomo perché pensa che la polizia possa comportarsi in modo stupido, e sottintende nel dirlo che possa comportarsi comportarsi in modo razzista. Ci sono stati quelli che hanno applaudito la presa di posizione di Barack Obama, che finalmente però tardivamente interveniva sull'argomento. Ci sono quelli che pensano, e fra questi sostengo ci possa essere anche il suo principale consulente David Axelrod, che nell'occasione Obama poteva stare più zitto, tant'è vero che poi ha cominciato a fare rapidamente marcia indietro, a dire che non intendeva dare degli stupidi ai poliziotti di Boston, che sono valorosi, che fanno il loro dovere, che hanno le loro procedure. Voleva dire solo che certe volte bisognerebbe tutti stare un po' più calmi, comportarsi tutti in modo un po' più adulto. E poi però, in questa situazione che sta diventando piuttosto imbarazzante, un po' scocciante, anche fonte, oltre che di perdita di qualità dell'immagine, anche di possibili, no, secondi atti assai fastidiosi, c'è stato il colpo d'ala, c'è stata l'idea, secondo me anche questa ampiamente firmata Axelrod, l'idea della birretta, ovvero invitare nella giornata di ieri i due responsabili, i due titolari della baruffa, ovvero il sergente Crowley, bianco, capelli rapati a zero, aria massiccia, sguardo duro, e il professor Gates, nero, di una certa età, molto autorevole, un po' arcigno, un po' offeso, anche un po' per natura, non so come dire, intorno a un tavolo a chiarire la questione. E Barack Obama ha detto: sono sempre stato convinto che quello che ci unisce è più forte di quel che ci divide, in occasione dell'evento, che è diventato sostanzialmente che cosa? Uno straordinario evento mediatico, perché i quattro signori stavano attorno a un tavolino apparecchiato in fondo al giardinetto, sorseggiavano birra un po' sbracati sulle sedie, mangiucchiando noccioline. Se guardavate, se avevate modo di avere il controcampo, c'erano 500 giornalisti che li fotografavano, li riprendevano, cercavano di sentire qualche battuta che i quattro si scambiavano. Insomma, è diventata l'ennesima occasione mediatica, l'ennesimo trampolino mediatico in un settore, no, della comunicazione in cui Barack Obama ha sempre mostrato di sapersela cavare più che bene. Vediamo qualche dichiarazione, vediamo che cosa dice. Una conversazione amichevole e profonda, l'ha definita Barack Obama. Il poliziotto Crowley, che abbiamo ascoltato in apertura, ha detto: ci siamo trovati d'accordo nel guardare avanti, è stata una occasione di educazione e non di recriminazione, è invece il punto di vista espresso da Gates. Crowley ha detto di non essere perfettamente d'accordo con tutto ciò che hanno detto i suoi interlocutori al tavolo, ma comunque di essere stato molto onorato dall'invito, e ha fatto anche sapere che ha pagato di tasca propria, anche il professore, entrambi gli ospiti hanno pagato di tasca propria per andare da Boston a Washington. Poi i cronisti appuntano anche che si sono bevuti quattro birre diverse, io quasi quasi ve le direi, insomma: Obama una Bud Light, Crowley una Blue Moon, molto local, Gates una Sam Adams, che è una rossa bella forte, e Biden addirittura una analcolica. Però insomma, in una settimana, anzi in un paio di settimane tutt'altro che avvincenti nella prestazione presidenziale di Barack Obama, questa è stata un'uscita piuttosto positiva. I dati non sono di gradimento, sono tutt'altro che incoraggianti in questo momento, e ne parleremo nella seconda parte del programma, per chiudere un po' il cerchio di questa settimana di stato delle cose, no? Negli scenari che ci stiamo accingendo ad abbandonare per le vacanze. Insomma, Obama ha faticato, ha avuto questo piccolo colpetto mediatico che ci sembrava giusto sottolineare. C'è un personaggio in tutta questa storia che è la vera bastonata della situazione, perché poi in queste cose finisce sempre così. Alla fine il professore è diventato famoso, i suoi libri venderanno un po' di più, il poliziotto si sta facendo il giro dei talk show, Obama tutto sommato fa finta o forse anche un po' convinto di essere capace a tutti i costi di impersonare il grande riconciliatore. Chi è che alla fine se l'è presa, come dire, un po' in saccoccia? Eccola. Thank you for being here and giving me this opportunity to speak with you today. I was not planning to make a public statement, but after the media managed to reach my mom, I thought I'd better speak for myself. Mi stanno dando dei razzisti, i media ormai stanno circondando addirittura mia mamma, è ora che parli e che faccia una dichiarazione pubblica. Questa signora, dalla voce tremolante, rotta dal pianto, dalla commozione, con accanto il marito, una signora minuta dall'aria veramente spaurita, è la signora che ha fatto la telefonata alla polizia, ovvero è quella che dalla finestra ha visto il professor Gates che forzava la porta della sua stessa casa e ha chiamato il 113, diremmo noi, ha chiamato la polizia di Boston. È stata letteralmente crocefissa da destra, a sinistra e dal centro, dai neri, dai bianchi, dai progressisti, dai conservatori, al punto da fare questa dichiarazione pubblica, questa piccola conferenza stampa, raccogliendo se non altro il plauso di alcuni giornalisti che hanno scritto, cioè un magnifico articolo di Simon su The Politico oggi, che dice: ma vi rendete conto comunque i media come possono essere cannibalistici in occasioni come questi? La signora in fondo aveva fatto il suo dovere civico, non ha fatto riferimento, ci sono le registrazioni delle sue telefonate, in alcun modo a parole offensive, ha solo detto nei confronti del professore, ha solo detto sta succedendo qualcosa di strano là sotto, è diventata la spiona in vena di razzismo. Almeno a lei, forse, Barack Obama, non dico un invito a bere una birra, ma un invito a fare, no, un tè, magari solo con Michelle, ecco, magari ci poteva pensare Michelle, tutto sommato poteva dedicarla, era soltanto una buona americana. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. So I tried it, little Freddy. I've got an answer to me. Ma dai, vacanza un po' anche per noi, allora abbiamo pensato bene di, come dire, seguire il filone della radio, no? Dopo i Queen, questo è ciò che resta dei Queen nel 2009, mica il, come dire, il più Freddy Mercuriano dei cantanti contemporanei, mica male, e vorrei concludere la parte gastronomica della nostra presentazione oggi in apertura riguardo alla Casa Bianca e ai tavolini con le birrette, con una notizia che arriva sempre da The Politico, il sito più informato d'America in questo momento, su quello che capita alla Casa Bianca. E allora devi sapere, caro Emiliano, una cosa: se ti invitano alla Casa Bianca e non sei un ospite politico, ma sei qualcuno che ha a che fare, per esempio, con industrie, corporation, insomma, sai cosa succede alla fine? No, ti presentano il conto. Ah, paghi. Allora c'è una procedura, qualcosa che noi dovremmo sapere, conflitto di interesse. C'è una gran paura dei conflitti di interesse anche in un colloquio, anche in un incontro con il presidente o il vicepresidente, qualsiasi cosa che possa risuonare come non dovuto. E di conseguenza che succede? È saltato fuori in questi giorni che alcuni presidenti già l'hanno fatto, in particolare, ma con Obama è regola, se si va lì in rappresentanza di una lobby, in rappresentanza di una corporation, in rappresentanza si paga. Alla fine, magari te no, ma il tuo segretario si vedrà strisciare la carta di credito. La cosa è stata accolta con la notizia con una certa riprovazione da parte di diversi operatori e manager che hanno detto: ma se è così, allora da adesso in poi cominciamo a parlare anche del menù, che francamente fa piuttosto schifo. Pensa se no in Quirinale, perché naturalmente il menù non si può scegliere, quello che danno e quello certo. di consumare, vabbè. E quelli, i cavoletti di Bruxelles sono dolori. Vai. Allora, 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Stavo sovrastando la sigla. Sensibilizzaci. Allora, tanto per restare così in tema abbastanza leggero di fine luglio, quindi di piena estate, voglio dedicare una brevissima notizia, che ne so, a chi abita a Roma, Palermo, Milano, non lo so, insomma, città che quando c'è un acquazzone tremendo la città va in tilt completo, perché il China Daily oggi in grande risalto segnala che Pechino è stata travolta dal più incredibile acquazzone dell'anno, con addirittura 16 mm che sono piovuti tra la notte di giovedì e venerdì. Ci sono delle foto che parlano chiaro di una città completamente allagata, con pedoni che hanno rispolverato gli stivali proprio d'acqua. Però dice, nonostante naturalmente il traffico in tilt e difficoltà, non si segnalano incidenti, quindi insomma anche in questo Pechino ormai sembra una città completamente moderna e completamente dentro il XXI secolo. Altre notizie da Casa Bianca, come se fosse un reality show, forse in parte lo è anche, e non a caso arrivano nuovi personaggi. Il clan di Obama a Washington si allarga, anche la sorellastra Maya Soetoro Ng, che l'avevamo vista in quella delle Hawaii, insomma l'avevamo vista in occasione del giuramento, è in arrivo, seguirà il marito che è un docente all'Università delle Hawaii, a cui è stato offerto un periodo di lezioni nel programma di studi sulla regione Asia-Pacifico al molto prestigioso Smithsonian Institute, la più grande istituzione culturale, soprattutto dal punto di vista proprio istituzionale, d'America. Saranno per 4 mesi in città e naturalmente si prevedono altri pranzetti a casa Obama, appunto come diciamo un reality. Pagherà la sorellastra, non credo, la Casa Bianca. Questo è interessante, se quando vengono i parenti fanno pagare anche lui. Allora, io rimango su questo filone molto light e vi racconto brevemente la storia che arriva da Tianjin, questa città tra l'altro con anche un insediamento storico italiano, con un quartiere degli anni 30. Dicevo, vi racconto la storia di Zhao Zitong, che è un anonimo giocatore di calcio della squadra locale di Tianjin, che ha pensato bene a fine partita, una partita molto calda, di inseguire e picchiare l'arbitro. Sì. Tutto perché l'arbitro, insomma, che tra l'altro secondo appunto il giocatore era colpevole della sconfitta della sua squadra, era colpevole di aver espulso 3 compagni di squadra. Ebbene, lo ha picchiato piuttosto violentemente e anche in questo i cinesi sono inflessibili ed è arrivata una squalifica esemplare, perché il giocatore è stato squalificato a vita. Non credo che in Italia esistano, fortunatamente, nessuno che va a picchiare l'arbitro, ma non credo ci sarebbero state pene nelle serie minori, forse lo fanno. Tra l'altro non è stato il solo a colpire l'arbitro, perché anche ci sono stati 2 compagni di avventura che hanno partecipato all'aggressione fisica all'arbitro. Per loro squalifiche lunghissime, ma comunque non così severe, perché ad esempio il portiere e il centrocampista, così dice la Reuters, hanno preso 3 anni di squalifica a testa. Comunque insomma, meglio non colpire gli arbitri, perché sennò si rischiano veramente squalifiche pesanti in Cina. Come dicevamo, c'è grande atmosfera così di vacanze in una Washington affaticata dalla tirata espressa dal Congresso nei confronti della crisi economica in questi ultimi 6 mesi, quindi le notizie arrivano così piuttosto sbrindellate nella loro tenuta politica. Ci sono delle piccole prese di posizione, dei rimandi, del ci vediamo a settembre, insomma il confronto si sta allentando, se possiamo dirlo. Non mancano naturalmente notizie pesanti e preoccupanti, come quella ad esempio che un altro soldato americano dell'ISAF, la forza internazionale a guida americana in Afghanistan, è morto ed è il numero, purtroppo il numero 40. Ci sono notizie piuttosto legate allo spirito dell'America profonda. Arrivano queste medaglie della libertà a grandi americani, conferite dallo stesso presidente, il senatore Ted Kennedy, l'attore Sidney Poitier, l'astrofisico Stephen Stephen Hawking, il giudice Sandra O'Connor e anche il vescovo anglicano sudafricano Desmond Tutu. Quando è tempo di crisi, meglio parlare di glorie del passato, ma insomma l'atmosfera appunto è quella delle vacanze. Hai ancora qualcosa? Sì, ne posso dare uno rapidamente su cui riflettere, anche questa piuttosto pesante, ponderosa, che arriva da Pechino, perché l'esercito della Repubblica Popolare Cinese, che tra l'altro conta su 2.300.000 effettivi, un'enormità, sia uomini che donne, serra i ranghi contro quella che considera la minaccia crescente e peggiore del momento. In qualche modo anche ieri Rampini nel collegamento a New York ce l'aveva fatto cenno, cioè il terrorismo. La Cina è preoccupata da figure che classifica come estremisti, separatisti e terroristi, che potrebbero minare la crescita esemplare della Cina e comunque l'ordine sociale discutibile naturalmente dei cinesi. E quindi per la prima volta l'esercito cinese si è munito di una sorta di pacchetto antiterrorismo, ha inserito delle esercitazioni speciali contro attacchi terroristici e ha predisposto una sezione proprio speciale per le operazioni urgenti contro, insomma, minacce di vario terrorismo. Dunque, punto della situazione, l'abbiamo fatto riguardo allo scenario israeliano, a quello iraniano, abbiamo parlato di Afghanistan, sempre con i nostri interlocutori ricorrenti, adesso arrivati a chiudere la settimana, insomma abbiamo un occhio sempre particolare per le cose americane, e allora abbiamo chiamato il corrispondente Sole 24 Ore da New York, nonché abituale commentatore anche qui da Jefferson, Mario Platero, per aiutarci a capire cosa succede in America, in procinto di una vacanza del Congresso e della Presidenza, tra virgolette, naturalmente vacanza, che lascia dei grandi punti interrogativi per l'immediata ripresa, perché è vero che Barack Obama appena 48 ore fa si era spinto a dire che la crisi era finita, ma poi ha fatto anche una immediata inversione di rotta, insomma ha detto di aspettarsi una contrazione dell'economia anche nel secondo trimestre quest'anno, ha parlato di stime degli analisti per un calo dell'1,5%, sospetto che i numeri sul PIL continueranno a mostrare che l'economia si è contratta nel secondo trimestre, ha cercato di trovare qualche ragione di ottimismo, ha detto che il precipizio ormai si va allontanando, ma ha riconosciuto che la perdita di posti di lavoro è ancora un enorme problema, insomma la nuttata, come direbbe De Filippo, ancora non è passata. Ma io vorrei introdurre invece Mario leggendo alcune righe, l'attacco di un articolo che ho trovato particolarmente interessante, ed uscito sul Wall Street Journal a firma della firma più prestigiosa del giornale, ovvero Peggy Noonan, che come al solito non è tenera con Obama. Io da qui vorrei muovere. Scrive la Noonan: sta succedendo qualcosa di grosso. Il presidente Obama sembra aver preso una cantonata sulla più importante iniziativa, quella che definisce la sua presidenza. Ha giudicato male il mood, l'atmosfera della nazione, il che è già di per sé stesso una notizia, se pensiamo che lui è venuto fuori dal nulla con la sua capacità di mostrare prima di tutto una grande sensibilità, delle grandi antenne. Invece la resistenza al piano, al progetto di riforma della sanità da parte dei democratici è percepibile nell'aria, e adesso si trova addirittura più su YouTube che nei sondaggi. Insomma, sta diventando un caso a parte. In pratica, il presidente, in due parole, potrebbe trovarsi di fronte da un momento all'altro a una vera sconfitta, e sarebbe interessante vedere le ragioni e le motivazioni per cui lui per la prima volta potrebbe perdere, cosa che non ha mai fatto prima di ora. Si entrerebbe in un nuovo territorio che darebbe luogo a livello nazionale a nuove dinamiche. Ciao Mario. Eccoci. Hai sentito questa... La Peggy Noonan ovviamente tira acqua al suo mulino, visto che è una repubblicana doc, certo, e quindi ovviamente cerca in qualche modo di restituire vigore alle fila del suo partito, che sono alquanto in difficoltà. Ecco, detto questo, c'è qualcosa di vero. E le difficoltà di Barack Obama hanno due definizioni: la prima è occupazione, la seconda è sanità. Ecco, su questi due fronti il presidente oggi non sta bene, al di là del fatto che l'economia nel secondo trimestre in effetti poi ha finito per contrarsi di nuovo. Infatti la mia impressione è che l'altro giorno soprattutto i giornali italiani hanno dato molta enfasi, certo, alle parole, certo, di Obama, che non erano poi parole così nuove, sul fatto che il peggio della crisi era passato, ma non che la ripresa sta arrivando, tant'è vero che lo stesso Obama ha criticato persino Newsweek per avere fatto una copertina troppo ottimistica. E dunque, al di là di questi aspetti congiunturali, il problema occupazione resta. Ci sono licenziamenti che crescono al ritmo di 200-300.000 unità al mese, certo non sono le 500.000, le 600.000 che abbiamo visto nei momenti peggiori, cioè gennaio e febbraio, ma se andiamo a proiettare su febbraio dell'anno prossimo, ecco che per allora avremo un altro milione grosso modo di disoccupati, facilmente forse anche 1,5 milioni, e dunque a quel punto sarà difficile poter dire che la crisi non c'è più, perché i disoccupati finiranno per essere una storia a sé. Ecco Mario, noi in questi giorni stiamo facendo una specie un po' di stato delle cose, no? Dopo aver seguito alcuni scenari con sì, particolare intensità, e una cosa che stiamo notando è che dopo sei mesi, insomma, di lavoro che perlomeno intenso va riconosciuto in quanto tale da parte della Casa Bianca, in questo momento l'atmosfera mediatica dell'informazione, della comunicazione che circonda Obama e la sua squadra non è più entusiastica, anzi sembrerebbe piuttosto affilata, no? Questo invito a prendersi delle vacanze, a ritrovare il tocco, ma non pensi si sia già dimenticato in un certo senso la straordinaria rincorsa di cui bene o male questa amministrazione è stata titolare sul fronte interno, e in modo secondo me ancora più straordinario sul fronte internazionale? Cosa ne dici? Beh, tutto si sta consumando in real time, in tempo reale, a una velocità, certo, straordinaria. Sembra che Obama sia con noi da anni, forse perché la campagna elettorale è stata lunga, ma come dici tu, Obama è lì soltanto da pochi mesi, da 5-6 mesi, ha fatto una gran quantità di cose, alcune è riuscito a portarle in porto, in effetti ha dato una svolta al pericolo di andare sul baratro per il piano, sul piano economico, ecco, quello non c'è più, ha salvato il settore auto, insomma ha fatto una gran quantità di cose. Ma torno a dire, a parte l'occupazione che abbiamo parlato, l'altro elemento su cui lui si trova in difficoltà con l'opinione pubblica è la sanità, e anche di questo ne abbiamo parlato a lungo. La battaglia vera partirà fra poco, ma la convergenza di questi due aspetti, battaglia sulla sanità e difficoltà sull'occupazione, finirà per avere un suo momento di esplosione, io credo intorno a gennaio-febbraio dell'anno prossimo, certo. Ecco, quello sarà un momento di svolta quando Peggy Noonan dice quello che dice e parla non soltanto di una sconfitta possibile in congresso, di difficoltà che può incontrare all'interno del suo stesso partito, del fatto che i Blue Dog, questa coalizione di moderati, comunque li stanno facendo un po' la guerra, cercano di riportarlo al centro, ma soprattutto si guarda in avanti alle elezioni di novembre, alle elezioni di metà mandato, e c'è questo spettro che sta tormentando davvero Barack Obama, e cioè il fatto che in una situazione molto simile Bill Clinton molti anni prima, nel 94, non solo non riuscì a portare in porto la riforma sanitaria, ma addirittura perse la maggioranza in congresso. Ecco, io non credo che si arriverà a tanto, anche perché poi Obama resta un personaggio comunque amato generalmente, a parte questo aspetto, soprattutto la riforma sanitaria. E dunque la battaglia è ingaggiata e in questo momento di lunga estate, calda ormai anche in America, credo che Obama appunto farebbe bene, come farà presto del resto, a prendere un po' di vacanza, andrà un po' a Martha's Vineyard sulla costa orientale e lì credo che farà un po' un raggruppamento con i suoi luogotenenti per cercare di capire un pochettino come riprendere l'iniziativa, ricucire quei compagni di partito e soprattutto coinvolgere quei repubblicani che possono dargli la sponda. La mia impressione è che lui cercherà a un certo punto il compromesso, sarà pragmatico, farà marcia indietro. La riforma sanitaria in un modo o nell'altro anche i repubblicani dicono che si deve fare. Come la si deve fare? È là che ci sono ovviamente le differenze. Beh, scusate, se Obama riuscirà a portare a casa qualcosa, pur cedendo qualcosa di importante, credo che lo farà. Tra l'altro c'è una, su USA Today di oggi c'è un interessante articolo a firma di Mitt Romney, l'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca, in cui Romney assume un atteggiamento costruttivo piuttosto aperto nei confronti di Obama sulla questione sanità, anche perché il modello Massachusetts poi si dice da più parti è il principale ispiratore del progetto nazionale sostenuto dallo stesso Obama, ma gli dice fondamentalmente una cosa: non avere fretta, te lo dice un repubblicano aperto, prendi tempo, lavora, soprattutto dai modo a tutti di dire la propria. Il fattore tempo è secondo Romney la chiave che potrebbe permettere a Obama di arrivare poi in porto con il suo progetto. Non mettere troppa pressione sul congresso. Secondo te, per concludere, è un discorso a trappola, cioè lo stanno fregando, o è davvero così? No, io credo che sia davvero così, perché ti dicevo è comunque nell'interesse di tutti in qualche modo cercare di fare questa riforma e togliersi il dente. Si tratta di vedere come farla. Come hai ricordato, Mitt Romney in Massachusetts ha portato una riforma sanitaria che ha risolto in qualche modo il problema a livello statale, e dunque guadagnare tempo significa guardare un po' più in là. La strategia di Obama era cercare di chiudere prima della fine dell'anno, cercare di chiudere a settembre, ottobre, novembre, in modo da poter chiudere questa partita sanitaria prima di gennaio, febbraio, quando poi si arriverà un po' ai conti e quando sarà la grande partita per le elezioni di novembre dell'anno prossimo, ricordiamolo, metà mandato, quando tutto il congresso, o diciamo tutta la Camera e un terzo del Senato saranno rinnovati. Ecco, qui si sta spostando un pochettino più avanti. Dovrà cedere, si rende conto che da solo non ce la fa, che il momentum della luna di miele, dell'inizio del suo mandato, di questo straordinario traino che è riuscito a imprimere al paese, si sta un po' esaurendo, e dunque anche lui, Obama, il grande il grande profeta, il grande Mosè, non forse riuscirà a fare tutto quello che voleva. Mario, noi ti ringraziamo per i tuoi numerosi interventi, sempre puntuale, per il tuo lavoro, e anche a te auguriamo buone vacanze qui da Jefferson. A presto. Grazie a voi, a presto. Feel it coming in the air, yeah. And the screams from everywhere, yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Say that we are, this is Rock Nation, pledge your allegiance, get your boutiques on, all black everything, black cars, all black everything, and our girls are black birds, riding with they diligence, I can't more in depth if you boys really real enough, this is not familiar, I'll explain later, but for now let me get back to trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks. Yeah, I'm talking 5, 6, 0, shot zeros. Here, Doug, back to running circles realm. Now we squared up, hold up. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. Uh-huh. So I keep doing my own thing. Walk and call against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give a hell. It's the return of the God, peace God. Ain't nobody fresher, I'm in Mason, Martin, Marcella on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras, they got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake, they should throw their hand in, cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my banquet is looking like millionaires, bro. Yeah. Life's a game, but it's not fair. I break the rules. So I keep doing my own thing. Walk and call against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give up now. Only thing that's on my mind is who won. Dalla televisione arrivano le immagini di uno shuttle che sta lentamente, morbidamente planando verso terra, verso il suo ritorno a casa. C'è un altro scenario che abbiamo seguito in quest'ultimo mese e 2 giorni, perché tutto è cominciato il 28 di giugno, giorno del colpo di Stato, comunque della cacciata del presidente del Honduras Manuel Zelaya, che è stato destituito e allontanato dal paese da una nuova giunta facente capo a un personaggio di origine italiana che si chiama Roberto Micheletti, secondo la pronuncia dell'Honduras. La storia ha lungamente oscillato tra la possibilità di una soluzione diplomatica attraverso un intervento statunitense con Hillary Clinton, che a più riprese, ecco l'atterraggio dello shuttle perfettamente eseguito dall'Endeavour. Comunque Hillary Clinton ha ripetutamente tentato un intervento pacificatorio, non trovando però né accoglienza né risposte né interesse da parte della giunta golpista. A quel punto è stato lo stesso Zelaya a prendere l'iniziativa, utilizzando essenzialmente il collega presidente del Costa Rica Oscar Arias come mediatore e tentando in diversi modi di riavvicinarsi, di rientrare a Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, per riassumere la poltrona di presidente di cui è legittimo titolare. La cosa non è andata per ora in porto, quindi anche questo scenario così lo frizziamo, no, in modo ancora aperta, ma i contatti si stanno infittendo, questo è un fatto certo. E ieri sono successe alcune cose che analizzate dal punto di vista diplomatico hanno un certo peso. Da un lato, il presidente golpista Micheletti avrebbe detto che l'incontro che si è tenuto a Managua in Nicaragua tra il presidente Zelaya e l'ambasciatore americano a Tegucigalpa in Honduras, Hugo Lorenz, sarebbe una ingerenza negli affari della nazione. Però poi per la prima volta Micheletti avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno, di un rientro in patria, di un ritorno in carica addirittura del presidente destituito Zelaya. La notizia arriva da una fonte anonima vicina comunque al negoziato, e Micheletti avrebbe però condizionato questa sua disponibilità all'invio di una delegazione nel paese che parli e dia assicurazioni a una serie di gruppi di potere, in primis alcuni imprenditori che non vedono di buon occhio la presenza di Zelaya e quindi il suo ritorno, seppure comunque legittimato sempre dal voto popolare, il che non va mai dimenticato. In Honduras c'è stata ieri comunque una violenta repressione da parte delle forze di sicurezza contro dei manifestanti in favore del ritorno di Zelaya. Si registrano diversi feriti, di cui almeno uno grave. Seguiremo naturalmente nelle prossime settimane, speriamo di trovare risolto alla riapertura questo complicato caso interno alla nazione dell'Honduras. E vogliamo concludere con un pezzo di giornalismo che ci è piaciuto molto, ci ha divertito molto, da una delle penne decisamente più velenose d'America, quella di Marin Daud. È stata svegliata alle 3:30 del mattino, pensate poi, c'è un programma della NBC, mica uno scherzo, una grande rete nazionale, dove un giornalista alle 3:30 del mattino, suppongo sulla base di accordi preesistenti, ma forse no, chiama giornalisti famosissimi della carta stampata e della informazione americana e chiede ragione dei pezzi che stanno per apparire sui giornali della mattina dopo. Marin Daud ha scritto un pezzo intitolato "Io amo Sarah Palin" e il giornalista di questo programma, che non a caso si chiama Fin troppo presto, l'ha chiamata subito. I love Sarah Palin. I mean, I love her more than anyone because as a journalist she is the best story ever. It's like Hollywood, I say it also in the column. It's like Hollywood casting when you have Meg Ryan. E questa è Marin Daud, che devo dire con molta classe, insomma, si è ricomposta alle 3:30 del mattino, si è messa lì e da brava professionista ha cominciato la sua tirata e ha spiegato perché secondo lei, tutto sommato, questa candidatura possibile di Sarah Palin ha una corsa assai no, anticipata sul tempo alle presidenziali del 2012, è una notizia di grande interesse per lo scenario politico americano. Ha detto: io amo Sarah Palin più di chiunque altro, come giornalista la ritengo la migliore storia vivente che esista, mette insieme reality e politica. Dovete pensare che lei era una reginetta di bellezza, faceva le telecronache sportive, potrebbe adesso prendere l'ufficio occupato, che so, da Dick Cheney, ma vi rendete conto, è davvero la prima personalità al mondo capace di diffondere, di portare così in alto la politica in una interpretazione ventunesimo secolo, ovvero in una interpretazione reality. C'è della cattiveria naturalmente in questa lettura di Marin Daud, ma c'è sicuramente anche della ragione, della logica applicata al rinnovamento, no? a una moderna lettura della politica che contenga in sé anche un po' di mondo dello spettacolo. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like E noi ringraziamo Marin Daud, David Brooks, tutti i loro colleghi che tanto spesso ci servono da fonte, da ispirazione per Jefferson 2, l'arte della svolta, che chiude qui questo ciclo di trasmissioni. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia oggi a Roma Paolo Corleoni, ma io ricordo anche Valerio Occhetti e Alessandro Chiappini che hanno lavorato qui dagli studi di Roma. A Milano oggi Filippo Aureggi, la mail che è sempre in funzione, Jefferson2@radio24.it, le nostre pagine Facebook che sono sempre aperte, redazione Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, una replica a mezzanotte e una ripresa a settembre con formati, idee, spazi, posizionamenti, palinsesti diversi, ma questo, come dire, una sorpresa da soppesare, da attendere. Noi qui, per il piacere di informarvi, vi auguriamo una ottima estate per l'intanto, a risentirci presto. We'll be right back.